Focus Economia. Con Simone Spezia. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Oggi con me, domani tornerà Sebastiano Barisoni in diretta da Pitti, in diretta da Firenze. I temi di oggi, di cosa parleremo? Allora, in apertura tratteremo di quello che apparentemente, come ci è stato presentato quantomeno dai siti, dalle agenzie, da quello che abbiamo letto, è uno scontro o quantomeno una tensione all'interno del governo tedesco in merito alle regole europee per quanto riguarda il deficit. Come sapete, tante volte lo abbiamo raccontato da questi microfoni e non solo, ma insomma ormai lo saprete anche di vostro, i tedeschi sono naturalmente quelli un po' più ostici nella modifica delle regole di bilancio europee ai fini soprattutto del calcolo del deficit. Ebbene, è successo oggi che il vice cancelliere tedesco, che è dell'SPD perché in Germania c'è un governo di grande coalizione e che è anche ministro dell'economia, ha detto, ha proposto di escludere dal calcolo del deficit pubblico i costi provenienti dalle misure di riforma, ossia quando fai una riforma questa, prima di dispiegare i suoi effetti, ha dei costi. Ebbene, Gabriel propone sostanzialmente che questi costi vengano espunti dal calcolo del deficit. Gli ha risposto a stretto giro la portavoce del ministro di altra parte politica, ossia del partito di Angela Merkel, il ministro delle finanze Schäuble, che dice c'è già abbastanza flessibilità nel patto. Di questo parleremo in apertura, andando proprio a vedere non tanto la situazione europea da questo punto di vista quanto quella tedesca e quanto politicamente la posizione di Gabriel abbia veramente un ruolo e un'importanza. Questo in apertura. Parleremo di Ucraina, altra questione correlata alle vicende europee, in particolare per quanto riguarda lo stop di fatto, la chiusura dei rubinetti da parte di Mosca del gas che transita dall'Ucraina. Ricordiamo che dall'Ucraina transita circa il 50% del gas che arriva in Europa. Questo naturalmente rappresenta un problema. Da Gazprom hanno detto che sono pronti ad aggirare l'Ucraina, ma hanno anche ammesso che sarà molto difficile riuscire ad equilibrare insomma la quantità di gas che arriva in Europa, appunto aggirando l'Ucraina attraverso Nord Stream, il gasdotto del Baltico, o Yamal Europe, quello che passa per la Bielorussia. Ci occuperemo di mercati come sempre e come è naturale che facciamo. Oggi una giornata in calo, meno 0,74% sul FTSE MIB, meno 0,74% anche sul FTSE All Share, negativo anche il resto d'Europa. Parigi cede mezzo punto percentuale, Francoforte lo 0,06% e Londra lo 0,09%. Per quanto riguarda l'America, il Dow Jones giù dello 0,11%, il Nasdaq altrettanto. Mercati sui quali oggi inizia l'IPO, ossia la quotazione in borsa di Fincantieri, primo giro diciamo di questa nuova ondata di privatizzazioni. Parleremo di questa offerta pubblica con l'amministratore delegato di Fincantieri. E poi ci sono le tasse. Quanti di voi in questa giornata sono stati costretti a fare le file? Tra l'altro c'è un comunicato oggi di Confedilizia che parla di ressa agli sportelli, soprattutto per la Tasi. Quanti di voi sono stati costretti a fare la fila? Ci sono stati moltissime scadenze, diciamo, il giorno nero del fisco sotto questo aspetto, perché c'è la Tasi per i comuni che hanno varato la delibera, c'è l'IMU, c'è l'F24, c'è il 730, praticamente tutte le scadenze fiscali possibili. Vedremo di ragionare sulle prospettive di riforma anche da questo punto di vista, anche dal punto di vista delle complicazioni, senza considerare che oggi i comuni ci hanno messo del loro senza dubbio, perché non solo c'è la scadenza del 16 giugno, non solo c'è la scadenza del 16 ottobre, è prevista, come ben sapete, da decreto per i comuni che non sono riusciti a varare l'aliquota, ma Alcuni comuni, per venire incontro ai contribuenti, hanno, perdonate l'espressione, incasinato ancora di più le cose, mettendo alcuni le scadenze al 16 luglio, alcuni le scadenze al 30 e altri ancora le scadenze al 16 di agosto, che cade di sabato dopo un festivo. Pensate un po', insomma, i contribuenti in che condizione si sono trovati, se non siete contribuenti appunto di Tasi e IMU, quindi insomma siete tra i pochissimi fortunati. Di questo parleremo e cercheremo di capire appunto quali sono le prospettive di modifica e anche di semplificazioni sulle quali si sta lavorando. 349-238-6666 per i vostri sms, le notizie in breve di oggi. In apertura, come sempre, le materie prime, un quadro sulle materie prime. C'è qualche tensione, come sapete, soprattutto sui prezzi dell'energia a causa di quello che succede in Ucraina, ma anche a causa di quello che succede in Iraq. Comunque il WTI, quello quotato a New York, sale dello 0,07%, il Brent dello 0,13%, quindi non di molto, mentre invece sale la benzina. Tra il weekend e oggi, stando alle rilevazioni di Staffetta Quotidiana, tutti i marchi attivi sulla rete italiana, tranne Tamoil, hanno messo mano ai listini. Eni ha deciso un ritocco di un centesimo e mezzo per la benzina e per il gasolio. Il prezzo più alto per la verde rimane comunque quello di Kuwait, che ha fatto salire di un centesimo il prezzo. Si diceva dell'energia, dunque, le forniture di gas russo all'Ucraina sono state interrotte, come vi abbiamo raccontato, sono fallite le trattative perché è scaduto l'ultimatum che Mosca aveva imposto a Kiev perché pagasse il suo debito miliardario per il gas. Gazprom ha prima introdotto un sistema di pagamento anticipato del gas per l'Ucraina e poi bloccato l'erogazione. Sono dichiarazioni preoccupate naturalmente da parte di Bruxelles, da parte del commissario Oettinger. Visto che siamo in zona, andiamo sul prodotto interno lordo russo, che aumenterà solo dello 0,4% contro l'1,3% dello scorso anno, è quello che prevede la Banca Centrale Russa, riducendo in parte le aspettative del governo di Mosca. Governo di Mosca che però, insomma, aveva dato una forchetta piuttosto ampia, è crescita tra lo 0,5% e l'1,1%, insomma. Banca Centrale Russa che ha comunque deciso di mantenere stabile al 7,5% il tasso di sconto, già aumentato due volte negli ultimi mesi. C'è un altro tema finanziario in ballo in queste ore e vedremo se avremo il tempo, il modo e gli ospiti per trattare questo argomento in questa puntata. La Corte Suprema americana ha respinto l'appello dell'Argentina, confermando che Buenos Aires dovrà pagare esattamente 1,3 miliardi di dollari ai fondi hedge che non avevano aderito ai concambi sul debito. È successo che il differenziale coi titoli di Stato americani è balzato di 60 punti a 800, anche loro hanno problemi di spread. Indeciso rialzo anche i CDS, i credit default swaps, che sono, per farla molto semplice, una sorta di assicurazione sul rischio di fallimento di un paese, a 1788. Nella sua difesa l'Argentina aveva parlato di rischio di nuovo default in caso di necessità di pagamento. Quantomeno un default cosiddetto tecnico. Ah, A proposito di Fincantieri, ha ragione che ci scrive: oltre all'IPO di Fincantieri c'è anche quella di Fineco, ne parleremo nella parte dei mercati come sempre. Il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto al ribasso la crescita americana per il 2014, un più 2% contro il 2,8% stimato precedentemente, conferma una crescita del 3% per il 2015. Ve le diamo così perché, insomma, visto quante volte vengono riviste al ribasso o al rialzo queste cifre, insomma, vi diciamo che il Fondo Monetario prevede una crescita per gli americani del 3% nel 2015, ma sappiamo che, insomma, è al momento piuttosto vaga. Mentre invece la Bundesbank, la banca centrale tedesca, indica una crescita del 2% sempre nel 2015 per la Germania e parla di una crescita dell'1,9% nel 2014. Sullo sfondo di questa giornata in Germania, ne parleremo tra un attimo e ve l'abbiamo detto, c'è questa sorta di scontro tra il vice cancelliere tedesco e il ministro dell'economia Gabriel e il portavoce per il momento di Schäuble, del ministro delle finanze. Le tasse. Oggi è l'ultimo giorno per pagare, senza maggiorazioni, le imposte e i contributi del modello unico, l'acconto IMU e la TASI. Se il Comune ha deliberato, come vi dicevamo. Anche di questo parleremo più avanti. Nel frattempo vi diciamo che tra il 2011 e il 2012 l'Italia in Europa è il paese che dopo l'Ungheria ha conosciuto l'aumento maggiore della tassazione rispetto al PIL, passando dal 42,4% al 44%. E naturalmente è l'anno dell'IMU, non a caso, eh? Infine Alitalia, l'azienda ha convocato i sindacati per oggi pomeriggio, all'incontro ci sono anche le sigle professionali, non abbiamo ancora notizie in merito. Anzi, in realtà sappiamo che Filt Fit e UGLT, alcune delle sigle, anzi no, anche la CGL, mantengono la disponibilità al confronto, ma preannunciano l'indisponibilità a rispondere alla convocazione odierna e restano in attesa della conferma degli incontri programmati. Incontro che poi è stato dunque rinviato. Iniziamo dunque dalla Germania. Chi ci scrive intanto: che fortuna che non pago Tares e IMU, dormo sotto un ponte, vabbè. E invece Marco: ho fatto il bonifico Tasi e IMU online con gli estremi di pagamento speditemi dal mio comune, nessuna fila, nessun contrattempo, se si vuole tutti assieme si può. E però ci scrive della provincia di Trento, così è facile. Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, buonasera. Sì, buonasera. Allora, con te vogliamo parlare di quella che ai nostri occhi, almeno per come è stata presentata dalle agenzie italiane, poi chiediamo dettagli anche a te, risulta una sorta di scontro all'interno dell'esecutivo tedesco tra il, che sappiamo che è un governo di grande coalizione, tra il vice cancelliere e ministro dell'economia e il ministro delle finanze. In sostanza, quel che abbiamo letto, Sigmar Gabriel dice: escludiamo dal calcolo del deficit pubblico dell'Eurozona i costi provenienti dalle misure delle riforme. Cioè, come si diceva, le riforme ci mettono del tempo a dispiegarsi, nel frattempo costano qualcosa, se costano qualcosa escludiamo questo costo dal calcolo del deficit. Schäuble dice, o almeno il suo portavoce, no, c'è già abbastanza flessibilità nel patto di stabilità. Perché? A che serve tutto questo? Abbiamo capito bene, Alessandro? Sì, la cosa sta più o meno in questi termini. È chiaro che c'è sempre un po' un gioco delle parti, soprattutto in questo governo di coalizione. In realtà Berlino si rende conto che deve fare qualcosa per aiutare soprattutto Parigi, anche se questa linea sposata oggi da Gabriel in fondo non è lontana nemmeno da quello che diceva Renzi, di cambiare un po' le regole delle regole fiscali in Europa. Dicevo, Berlino si rende conto, soprattutto dopo il risultato delle europee che ha spaventato molto l'establishment tedesco, che a Parigi questo successo della Le Pen può avere un effetto devastante, che quindi bisogna in qualche modo andare incontro al governo francese, anche se non è proprio che la Merkel e Hollande siano in perfetta sintonia, però c'è la sensazione di dover fare uno sforzo nella direzione dei francesi. Singolare che per adesso Parigi non ha commentato, anche se Gabriel ha parlato di una iniziativa franco-tedesca. Tra l'altro, a proposito della rigidità, scusate, dell'altro pezzo del governo, no? Tu ci dici una sorta di gioco delle parti, viene battuta dalle agenzie in questo momento una dichiarazione della portavoce del ministro Schäuble, sollecitata proprio dall'ANSA, tra l'altro, a chiarire la proposta di Gabriel. Dice: nessuno nel governo tedesco mette in dubbio il patto di stabilità, le regole vanno rispettate, ai paesi colpiti dalla crisi viene già dato più tempo e quindi sostanzialmente non c'è nessun problema. Secondo te che possibilità effettive ci sono di movimento nella direzione indicata da Gabriel? Beh, intanto per cominciare bisogna precisare che non si tratta di una questione imminente, nel senso che lo stesso Gabriel parla di presentare una proposta alla nuova commissione, quindi siamo ancora abbastanza lontani da questa prospettiva. È interessante notare, appunto, riguardo alla tempistica, che la nuova commissione si insedierà più o meno con la presidenza, con il semestre italiano di presidenza dell'Unione Europea, quindi in certo modo questa tempistica potrebbe coincidere, come dicevo, l'Italia tende a spingere un po' in questa direzione. Io credo che i tedeschi difficilmente faranno degli enormi passi avanti su questa questione della flessibilità, perché, come dice la portavoce di Schäuble, sono convinti che ci sia già della flessibilità, e del resto la Francia ha già avuto due rinvii per il raggiungimento degli obiettivi di bilancio. Quindi in Germania molti vedono anche il fatto che concedere un'ulteriore dilazione, un'ulteriore deroga alle regole della Francia forse non sia del tutto benefico per la credibilità del patto di stabilità. Non dimentichiamo che più volte è stato ricordato che furono proprio Francia e Germania, con la complicità dell'Italia, a attuare il patto di stabilità nella sua prima versione. Però, come dicevo, c'è la volontà da parte di Berlino, quantomeno la coscienza, di dover fare qualcosa per andare incontro alla Francia, che in questo momento viene vista come economia in maggiore difficoltà, forse ancora di più dell'Italia. Non mi aspetterei, come diciamo nella indole e anche nella prassi del cancelliere Angela Merkel, che si tratti di un balzo in avanti, ma piuttosto magari di un piccolo passo nella direzione di un aiuto ai francesi. Allora, vedremo che cosa succederà da questo lato. Io intanto ti ringrazio Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, e noi adesso passiamo a parlare sempre di questioni europee, ma in questo caso di questioni energetiche. Mosca ha chiuso i rubinetti verso l'Ucraina. Sono fallite le trattative, è scaduto l'ultimatum che Mosca aveva imposto a Kiev perché pagasse il suo debito miliardario per il gas. e Gazprom ha bloccato l'erogazione sostanzialmente. Dalla passa metà del gas diretto in Europa. Saluto Sissi Bellomo del Sole 24 Ore che mi ha raggiunto in studio. Ciao Sissi, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora, dice Gazprom, noi controlleremo la situazione quotidianamente. Se una certa quota di gas resterà bloccata in territorio ucraino, in questo caso aumenteremo gli approvvigionamenti. Un problema con questi accenti, perché l'aggettivo sarebbe ucraino, il paese sarebbe Ucraina. Aumenteremo gli approvvigionamenti attraverso Nord Stream, il gasdotto del Baltico, o Yamal Europe, quello che passa per la Bielorussia. Però, spiega anche Miller di Gazprom, non si riesce a compensare in questo modo. Non si riesce completamente, no. Intanto bisogna chiarire esattamente che dall'Ucraina passa la metà del gas russo diretto in Europa e non la metà del gas che l'Europa consuma, per fortuna. Per cui è il 15% circa del gas consumato in Europa. L'Europa ne produce ancora, anche se sempre meno nel mare del nord, si rifornisce anche da altre vie e quindi insomma comunque un 15% di gas che se venisse a mancare sarebbe un grave problema. Quello che ha fatto oggi Gazprom è di chiudere l'erogazione del gas destinato all'Ucraina. L'Ucraina ha confermato, e lo confermano anche i paesi che poi lo ricevono via Ucraina, che sono al confine con l'Ucraina, l'Ucraina almeno per oggi sta continuando a far passare quello invece destinato agli altri mercati, ai mercati europei. In particolare sono molto in allerta quelli che dipendono tantissimo dalla Russia e dalla Russia via Ucraina, come la Polonia, come la Bulgaria. Questi sono paesi veramente impiccati se smettesse di passare dall'Ucraina. Per noi il problema è un po' meno grave, ma è un po' meno grave anche perché è estate. L'ha detto chiaramente anche il commissario europeo all'energia Oettinger, l'ha detto oggi. Le prossime settimane non saranno un problema, riceveremo i soliti volumi di gas, però con il freddo invernale, con l'arrivo dell'inverno nei prossimi mesi il problema potrebbe esserci. Questo anche perché l'Ucraina, non ricevendo più gas dalla Russia, potrebbe attingere alle sue riserve, alle riserve del gas che ha messo via, ma quelle servono anche a far funzionare i flussi di gas verso l'Europa. Se se le mangia, a un certo punto non riuscirà più a mandarcene o lo ruberà fra virgolette, come spesso Mosca l'ha accusata di fare, o comunque utilizzerà quello che ha messo da parte, si svuoterà i suoi stoccaggi. Qualche ripercussione si potrà avere, a maggior ragione perché in altri nostri fornitori importanti, il Nord Africa, la Libia, non è che proprio sono in condizioni tranquillissime. Brillino per stabilità politica, esatto. Per così dire. Allora sì, dall'idea che ti sei fatta, dall'analisi della situazione, insomma, di informazioni, di notizie, te ne passano sotto tante. Che concretezza ha l'ipotesi che l'Ucraina veramente ad un certo punto decida di bloccare, per così dire, nel suo territorio il flusso di gas e quindi di tenerselo quel gas che dovrebbe arrivare all'Europa? Non possiamo escluderlo, è difficile provarlo al 100%, il gas è gas, anche se poi i russi insistono, il gas russo è della Russia, ma i tubi sono dell'Ucraina, il gas è gas, come fai a capire se è presa il mio, se è presa il tuo? È possibile che se si ritrovasse in una situazione veramente difficile durante l'inverno, e l'inverno da quelle parti è ben freddo, anche peggio che qua ovviamente, chissà, potrebbe anche farlo, questo non è escluso. Kiev ha anche chiesto aiuto ulteriore all'Unione Europea nel facilitarla a riceverne per altre vie di gas. Quanti soldi deve l'Ucraina a Mosca? Anche questo è questo il nodo della discordia. Mosca dice che gliene deve 4 milioni e mezzo, 4 miliardi e mezzo. L'Ucraina dice di no. Naturalmente la somma del debito varia a seconda del prezzo che presumi costasse il gas in quel periodo. L'Ucraina ha goduto per un brevissimo periodo, quando aveva Yanukovych, filo russo, di uno sconto notevole sui prezzi del gas, e pretenderebbe che il suo debito venisse valorizzato a quel prezzo lì anche per i mesi in cui invece Mosca aveva improvvisamente quasi raddoppiato questo prezzo, portandolo a oltre 480 dollari per 1000 metri cubi di gas, che è veramente una cosa, sono $100 in più di quanto lo paghiamo in media noi altri clienti europei, è veramente un prezzo esoso. D'altronde l'altro era veramente molto scontato, l'Unione Europea stava proponendo delle mediazioni su un prezzo allineato più o meno sulla media europea. Queste mediazioni, come abbiamo visto, per il momento sono fallite e le due parti sono molto inferocite l'una con l'altra, la situazione è abbastanza tesa, anche se non è escluso che possano riprendere a trattare. Si sono denunciate reciprocamente al Tribunale dell'Arbitrato di Stoccolma. Brevissimamente, sì. Corriamo rischi grossi, e questi rischi sono in termini di prezzo o in termini di carenza di gas? In termini di prezzo relativi, perché il nostro gas arriva per la maggior parte da contratti in cui il prezzo è predeterminato in base a determinate formule, insomma indicizzato a formule, adesso pare un po' meno di un tempo al petrolio, un po' più al mercato spot. Questo fatto che ce lo siamo un po' sganciati a quanto si sa, quanto è filtrato in media, perché poi questi contratti sono segreti, nessuno di noi li ha visti, a quanto è filtrato, il fatto che abbiamo conquistato, Eni abbia conquistato con Gazprom un legame di prezzo più col mercato spot, quindi su un andamento di mercato libero dei prezzi, potrebbe persino dare danneggiarci, perché se c'è una crisi del gas sui mercati ci sarebbe una reazione sui mercati del gas. D'altronde anche il petrolio, vediamo che ai massimi da 9 mesi, se anche fosse agganciato a petrolio e prodotti petroliferi. Certo. Quindi sì, un po' in termini di prezzi, in termini di carenze è possibile che l'Italia non abbia grossissimi problemi. I problemi dovrebbero intervenire, se ci saranno, soprattutto nei paesi dell'area balcanica, in Bulgaria, come ti dicevo, in Polonia. Però rispetto alle crisi del gas che ci ricordiamo del 2006 e del 2009, bisogna ricordare che siamo in una situazione molto migliore. Il Nord Stream, quel gasdotto di cui parlava la stessa Gazprom, non esisteva nel 2009, adesso esiste, è una via importante alternativa per il gas russo. E poi è migliorata moltissimo l'infrastruttura generale dei gasdotti europei, e ci sono molte possibilità di scambiarci gas tra un paese all'altro, molte di più di quanto non ci fossero nel 2009. In più aggiungiamo che abbiamo gli stoccaggi belli pieni al 64% della capacità, che è un livello piuttosto buono per questo periodo dell'anno. Ed eccoci di nuovo, continuano ad arrivare messaggi sulle tasse. Scrive qualcuno: pagato tutto via internet, nessuna fila, nessun problema. Gianluca, che aggiunge: grande Belinelli, ok, sì, grande Belinelli, per la vittoria in NBA degli Spurs, però non tutti i comuni hanno questo servizio via internet per pagare la TASI. Comunque ne parleremo più avanti di tasse, adesso invece è il momento della borsa. Chiusura negativa, meno 0,86% il FTSE MIB, meno 0,82% il FTSE OSHARE, negativo anche il resto d'Europa, Parigi meno 0,73%, Francoforte meno 0,29%, e Londra meno 0,23%, l'America meno 0,25% sul Dow Jones e meno 0,24% sul Nasdaq, lo Standard & Poor's 500 cede lo 0,19%. Eleonora Micheli, Radio Core Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. E tra poco arriveremo, lo dico anche a chi ci sta tempestando di messaggi, sempre la stessa persona, a proposito dell'aumento di capitale di Carige, ci arriveremo tra un attimo. Intanto, Eleonora, dammi un quadro generale dei mercati oggi. Sì, oggi i mercati hanno registrato una seduta debole, Piazza Affari in particolare ha perso lo 0,86%, un po' più rispetto alle altre borse europee. Tornano a far paura l'Iraq e la guerriglia in Iraq e le tensioni anche in Ucraina, e tutto sommato comunque sono scuse anche prese in considerazione dagli investitori per portare a casa un po' di guadagni. Ricordiamo che anche il FTSE MIB proprio la scorsa settimana si è spinto su massimi che non vedeva dalla primavera 2011. Allora, per quanto riguarda i singoli titoli, iniziamo dal fondo, va Telecom Italia, meno 4,2%. Sì, anche in questo caso caso va ricordato che Telecom è uno dei titoli che ha corso di più, vanta comunque un progresso di oltre il 30% da inizio anno. Detto questo, oggi Mediobanca prima e poi sul finale anche Intesa San Paolo hanno comunicato quello che fondamentalmente già si sapeva, cioè che chiedono la scissione da Telco, la scatola che controlla il 22,4% delle azioni di Telecom Italia. In pratica Intesa, Mediobanca, ma anche Generali, anche se non l'ho ancora comunicato ufficialmente, hanno fatto sapere che preferiscono detenere direttamente le azioni e il debito Telco, e quindi si presuppone poi che da qui a 6 mesi vendano la propria partecipazione. Nel caso di Mediobanca ad esempio è pari all'1,6%, e proprio mettendo in conto queste vendite le azioni hanno quindi ritracciato di oltre il 4%. Allora, negativi molti bancari: Popolare Emilia Romagna -3,5%, Banco Popolare -2,77%, UbiBanca -1,62%, Intesa San Paolo 1,5%, Popolare di Milano -1,32%, ma se si vuol parlare di bancari oggi, sono due aumenti di capitale in corso, uno iniziato oggi, quello di Carige, e poi Monte dei Paschi, che oggi ha guadagnato il 21,34%, naturalmente ci sono anche motivazioni tecniche. Eccoci ancora sui mercati, Eleonora Micheli, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, Carige. Sì, Banca Carige, così come MPS, oggi ha iniziato l'aumento di capitale. I diritti hanno perso l'8,2%, mentre le azioni sono salite dello 0,8%. Comunque hanno contrattato nonostante, come nel caso di MPS, ci fosse un forte sconto delle azioni di nuova emissione rispetto a quelle in circolazione fino alla scorsa settimana. D'altra parte anche le dimensioni sono più piccole. Per quanto riguarda invece, facendo un parallelo, MPS, oggi i titoli sono balzati in avanti addirittura del 21% a 2,21 euro, ma soprattutto per la prima volta sono andati bene anche i diritti, che hanno guadagnato oltre l'1%. È il primo giorno, nei giorni scorsi invece perdevano vorticosamente quota. Potrebbe essere legato al fatto che questa è l'ultima settimana che si contrattano i diritti legati all'aumento di capitale da 5 miliardi, e dunque qualcuno inizia ad acquistarne a man bassa. Vedremo nei prossimi giorni cosa succederà. L'aumento di capitale invece si concluderà a fine mese. Allora, grazie intanto a Eleonora Micheli di Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Un quadro degli altri titoli: World Duty Free +0,87%, Atlantia +0,58%, Snipen +0,48%, Snam +0,41%, beneficia di un report favorevole di UBS Snam, così come fa Luxottica, che però chiude in negativo dello 0,07%, Bene Enel +0,23%, Hughes +0,14%, Enel Green Power +0,09%, poco sopra la parità anche Campari, Eni e Terna in perfetto pareggio, appena sotto A2A, giù dello 0,06%. Telecom Italia abbiamo detto, così come di molti bancari, giù Azimut del 2,9%, Pirelli del 2,5%, G-Tech del 2,4%, Prismian dell'1,81%, Mediolanum dell'1,71%, Finmeccanica dell'1,68%, Mediaset dell'1,44%, Generali dell'1,33%. Degli altri bancari vi abbiamo detto: Unicredit altrettanto, giù dell'1,33%, e Popolare di Milano l'1,32%, Unipolsai giù dell'1,23%, come TOTS di poco più di un punto percentuale, perdono Fiat, Exor e Buzzi Unicem. Adesso però continuiamo a parlare di mercati, ma per parlare di Fincantieri. Quotazione in borsa ai Fincantieri, almeno di una parte ai Fincantieri, parte oggi fino al prossimo 27 giugno. José Fincantieri, un gruppo di cantieristica navale, nel 2013 ha consegnato 33 navi di oltre 40 metri, un giro d'affari da 3,8 miliardi di euro, 85 milioni di utili, un portafoglio ordini da 13,7 miliardi. Controllata al tesoro attraverso Cassa Depositi e Prestiti Fintecna, 20.000 dipendenti, di cui 8.400 in Italia e 21 stabilimenti in 3 continenti. Abbiamo parlato, abbiamo intervistato l'amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, l'abbiamo raggiunto tra un incontro con gli investitori e l'altro e gli abbiamo chiesto innanzitutto di darci un'idea delle dimensioni, delle caratteristiche dell'offerta. La dimensione dell'offerta è, intanto l'offerta è composta di due parti, una per un aumento di capitale fino a 600 milioni che vanno nelle casse della Fincantieri per sostenerne lo sviluppo e la crescita, e una parte invece è una vendita di azioni da parte dell'azionista. Ovviamente l'entità delle due deve corrisponderà poi al prezzo che verrà definito sulla base delle offerte che ci perverranno. Quello che è certo è che l'azionista pubblico in questa fase manterrà il 55% del capitale. Questo almeno per quanto riguarda questa fase, insomma, ne ha parlato oggi tra l'altro Franco Bassanini, presidente della Cassa Depositi e Prestiti. Dice, insomma, non si può escludere in futuro un ulteriore aumento di capitale, un aumento della quota collocata sul mercato. Questo per quanto riguarda il vostro azionista. Vorrei capire che cosa contate di fare con queste risorse, con le risorse che arriveranno dalla quotazione. Allora, noi abbiamo comprato recentemente una società che è la prima al mondo nel settore dell'offshore, una società norvegese che era posseduta dai coreani, quotata alla borsa di Singapore, e abbiamo speso per il 55% circa 500 milioni, che abbiamo fatto tutto con risorse proprie di Fincantieri. Ovviamente oggi, per sostenere la crescita futura dell'azienda, sia in termini di dover, come dire, far fronte a quel grande portafoglio ordine che abbiamo, e quindi la necessità di avere assicurata il capitale circolante necessario, abbiamo bisogno di avere una struttura finanziaria solida che nel frattempo sia indebolita per l'acquisizione che abbiamo fatto di questa società norvegese che abbiamo fatto, come dicevo, con le risorse nostre. E quindi ci sono ipotesi di eventuali nuove acquisizioni a breve o a medio termine? A questo momento noi pensiamo di fare l'operazione, perché intanto è questo il nostro obiettivo. Dobbiamo crescere, abbiamo sicuramente una crescita per linee interne che è quella di sostenere le commesse che abbiamo acquisito e che stiamo acquisendo in questo periodo, e quindi abbiamo bisogno di avere di risorse per crescere per portare a termine le commesse che abbiamo. E poi, come si dice, noi siamo stati sempre attenti a vedere le evoluzioni che ci saranno sul mercato globale. Noi ci sentiamo un'azienda globale, siamo in settori che sono certamente ad alto valore aggiunto, delle nicchie importanti, siamo unica al mondo in questo senso qui, non c'è un'altra società in tutto il mondo che ha i settori che abbiamo noi, e ci sentiamo, come dire, di essere un punto di riferimento per qualsiasi operazione che possa essere fatta al mondo nel settore nostro. Allora, continuano ad arrivarci degli sms di ascoltatori che ci dicono: quasi IMU, le ho pagate tutte via internet, non c'è nessun problema. Sì, per carità, avete ragione, a parte che però è vero anche che non tutti utilizzano internet in questo modo, non tutti si fidano. Poi per carità, magari deve evolvere anche il paese. Detto ciò, oggi è una giornata di scadenze piuttosto pesante complessivamente, e c'è anche una certa confusione su queste scadenze, diciamoci. E di questo riordino e di questo tema, di questa giornata, partendo da questa giornata per guardare un po' in prospettiva. Buonasera da Simone Spezia e benvenuti alla seconda parte di Focus Economia. C'è chi scherza e paragona la giornata di oggi sul fronte delle tasse al cosiddetto giorno delle tre streghe in borsa, quando scadono i futures sugli indici, le opzioni sugli indici e sulle azioni. Fatto sta che oggi scadono un sacco di cose. All'ascoltatore che ci scrive oggi il bottino è di 42 miliardi, diciamo che in realtà il bottino, sempre aperte virgolette, è di 54 miliardi e mezzo. IMU, Tasi ma non per tutti, unico ma unico non per tutti. Nuotare nel mare fiscale italiano è complicatissimo. Ha ragione, lo dico ancora una volta, che ci scrive: si può pagare via internet, e quindi perché parlate di resse, di file? Perché effettivamente le resse e le file ci sono state, lo racconta qualcuno, lo racconta per esempio con Confedilizia, ed è vero anche che ci sono alcuni home banking, qualcuno ce lo segnala via SMS, che non consentono il pagamento del bollettino via banca, via internet banking. Salvatore Padula del Sole 24 Ore, buonasera e benvenuto, vice Grazie, direttore del buonasera. Sole 24 Ore, in studio con noi. Allora, io devo dirti una cosa: di tutto quello che ho letto sono rimasto, non dico sconvolto perché ormai questo paese ci abitua a questo e ad altro, quando ho letto sul Sole 24 Ore di oggi che in realtà, nonostante la legge preveda espressamente due scadenze per la Tasi, cioè o si paga il 16 giugno o si paga il 16 ottobre, alcuni comuni hanno deciso che no, che non è così, si può anche rinviare, e alcuni hanno addirittura rinviato al 16 agosto, e tra l'altro è un sabato dopo un festivo, quindi insomma siamo proprio alla follia. Sì, diciamo che questa forse è la punta dell'iceberg di una situazione legata in particolare alle tasse sulla casa, quindi la Tasi e anche l'IMU, che sicuramente è assolutamente sfuggita di mano. Il calendario definitivo delle scadenze è arrivato, insomma, pochi giorni fa, relativamente pochi giorni fa, 7-8 giorni fa, ma con questa particolarità che poi in realtà molti comuni hanno comunque scelto e preferito di fissare proprie date di scadenza. Ad esempio l'ha fatto Ancona, l'ha fatto Bari, l'ha fatto Venezia, l'ha fatto Vicenza, l'ha fatto Pordenone, insomma questi già dall'inizio, diciamo così, avevano deciso di fissare date diverse, qualcuno a luglio, qualcuno a settembre, quindi grande confusione. In più, in questi ultimissimi giorni alcuni comuni, alcune amministrazioni, di fronte insomma all'oggettivo caos che si è creato, alle difficoltà per i contribuenti di fare i calcoli, di trovare le aliquote, eccetera, hanno in queste ultimissime ore fissato delle date, prorogato diciamo di fatto in casa i termini, lo ha fatto Brescia che ha spostato al 12 luglio, lo ha fatto Mantova che ha spostato al 31 luglio, addirittura i comuni della Val d'Aosta hanno deciso tutti di slittare al 31 agosto, qui c'è anche diciamo un po' il segno di una protesta contro i continui ripensamenti nazionali del governo sulle scadenze. Ma insomma, ci siamo trovati questa nuova tassa, la TASI, che ancora fatichiamo un pochino a inquadrare, no? Riguarda i servizi indivisibili dei comuni, ma poi in realtà colpisce diciamo la casa, compresa la prima, esattamente come la vecchia IMU. In alcuni casi, in alcuni comuni, per le seconde abitazioni e per gli immobili diversi dalla prima casa si somma addirittura all'IMU, quindi diciamo c'è senz'altro un discorso legato al carico, al peso del prelievo che al di là delle polemiche tra il governo, i comuni, la Banca d'Italia che pure è intervenuta, mi sembra che in molti casi sia aumentato o destinato ad aumentare per chi non ha ancora pagato, il tutto in un quadro di assoluta incertezza e sulle date delle scadenze, no? Oggi si è chiuso questo termine nazionale del 16 giugno, che però è insomma relativo perché tanti hanno fatto scelte diverse. Il governo è uscito rispondendo a un'interrogazione parlamentare facendo capire che avrebbero fatto un intervento per non applicare le sanzioni sugli errori, però poi concretamente ancora non abbiamo visto niente e quindi insomma diciamo ultimo capitolo, anzi forse penultimo perché a settembre, a ottobre e a dicembre avremo i capitoli finali di una vicenda iniziata male con la legge di stabilità, con l'introduzione di questa tassa e poi devo dire gestita ancora peggio. Qualcuno ci scrive via sms al 3492386666, ma ridateci l'ICI addirittura. Bella però, sì. Ci dice qualcuno, ci scrive, questo lo diamo come informazione di servizio per i cittadini di Treviglio, proroga al 16 luglio, quindi un altro di quei comuni che ha deciso di prorogare. Ancora sull'home banking, non tutti gli home banking consentono questo tipo di servizio e molti che ci chiedono insomma tutte queste tasse, ma per cosa poi davvero le paghiamo? Intanto ci prendiamo una pausa per la viabilità e poi ci ritroviamo subito dopo per parlare invece delle prospettive a questo punto della tassazione sulla casa, ma non solo, cioè del tentativo di riordino di questa confusione fiscale perenne nella quale viviamo, perché adesso appunto stiamo parlando di TASI, della TASI per quei comuni che hanno deliberato, ma ci sono molti cittadini che non hanno la più vaga idea di quanto pagheranno di TASI il 16 ottobre, insomma, perché sono quei comuni che sono andati al voto e non solo quelli che sono andati al voto. Ne parlavamo proprio durante la viabilità con Salvatore Padula, vice direttore del Sole 24 Ore, all'ascoltatore che dice: mi spiegate la differenza tra TASI e TARI, appeso ho ricevuto solo la TARI. La TARI è una cosa solamente comunale, quindi arriva quando arriva. Arriva quando arriva e devo dire è più semplice perché il comune generalmente, anzi in tutti i casi, manda a casa del proprietario, del contribuente, il bollettino con l'importo da versare e le date dei versamenti. Non c'è una scadenza nazionale, quindi diciamo i comuni più o meno si stanno orientando tra, qualcuno l'ha già fatto, qualcuno ha scelto il 16 giugno, qualcuno ha scelto il 16 luglio, insomma, però oggettivamente insomma è più semplice, nel senso che ripropone di fatto il vecchio bollettino della tassa rifiuti che abbiamo pagato fino al 2013. Sulla casa è diverso. Se posso aggiungere le complicazioni di cui abbiamo parlato sulla TASI e probabilmente in parte sull'IMU, riguardano anche la dichiarazione dei redditi, perché oggi è anche il giorno in cui scade il termine per i versamenti legati al modello unico 2014, ma solamente sabato il Ministero dell'Economia ha comunicato ufficialmente l'arrivo di una proroga per tutti quei soggetti che presentano il modello unico e contemporaneamente sono soggetti agli studi di settore. Per questi ci sarà un po' di tempo in più, faranno il versamento senza sanzioni entro il 7 luglio, però insomma è un altro elemento, è una cosa che ormai succede da molti anni. Ormai non teniamo più il conto delle proroghe. Assolutamente, però ecco, la dice lunga su come il sistema sia diventato veramente assolutamente ingestibile. Tu prima dicevi, ma quali sono le prospettive? Ma guarda, io non lo so se possiamo essere ottimisti, ma forse sì, forse è meglio per tutti esserlo. In settimana il governo dovrebbe presentare al Consiglio dei Ministri, che ci sarà a fine settimana, un decreto legislativo di attuazione della delega fiscale molto atteso, che è quello che, diciamo, riordina e semplifica il sistema fiscale. Sarà previsto un pacchetto di semplificazioni, sarà prevista la dichiarazione, il modello di dichiarazione fiscale precompilato. Quindi che cosa dobbiamo auspicare? Dobbiamo auspicare che le misure che il governo sta predisponendo siano una volta tanto efficaci e che i contribuenti non siano costretti a queste acrobazie per compiere il proprio dovere da contribuenti. Quindi, perché questa è la cosa, cioè ci lamentiamo molto, no? E spesso degli evasori, chi non paga le tasse di qui di là. Però insomma io penso che uno Stato debba per prima cosa mettere le persone nella condizione giusta per adempiere agli obblighi fiscali e per pagare le tasse. Arriva questo provvedimento, incrociamo le dita, sappiamo benissimo che insomma i tentativi di semplificazione sono innumerevoli, no? Negli ultimi 10-15 anni ne abbiamo visti di tutti di più e nessuno ha avuto in realtà grande efficacia. In questo caso io mi auguro veramente che le norme in arrivo a fine settimana, che poi avranno un iter parlamentare come sempre, purtroppo le cose non sono immediate, però mi auguro che qualche cosa possano cominciare almeno a cambiare, perché così la situazione mi sembra davvero poco sostenibile. Assolutamente. Allora vorrei recuperare uno degli sms degli ascoltatori, ecco, che fa una valutazione, se vogliamo, politica, no? Dice fatela finita con queste tasse sulla casa, sapete bene che il caos l'ha scatenato Berlusconi con l'abolizione dell'IMU e non avete il coraggio di dirlo. Se vuole lo diciamo pure, fatto sta però che comunque, come dire, il cantiere delle tasse sulla casa ha previsto una quantità di modifiche nel corso del tempo, nel corso degli ultimi anni, che è stato pazzesco. Voglio dire, questo ha sicuramente giocato un ruolo, però non è la sola cosa che gioca un ruolo, come stiamo vedendo in queste ore dalla questione, senza farne una questione politica. Sono assolutamente d'accordo. È evidente che in tutta questa vicenda, diciamo, il confronto, scontro tra chi voleva mantenere l'IMU, tra chi la voleva sopprimere, tra chi voleva escludere la prima casa, è stato decisivo e ha contribuito in modo determinante al caos attuale. Io resto convinto del fatto che comunque si poteva, diciamo, anche andando a come dire, soddisfare le esigenze dei partiti che in questa partita, scusate il bisticcio di parole, si giocavano anche un po' la propria faccia con l'elettorato. Beh, io penso che all'interno di queste dinamiche qui si poteva trovare un modo per gestire in modo più ordinato e più organico questa vicenda. Purtroppo è sfuggita di mano, insomma, ecco, questa mi sembra la cosa più evidente. Ultima cosa, un'informazione di servizio, perché molti ascoltatori ci chiedono informazioni sulla famosa IUC, che in realtà esiste perché è quella che tiene dentro tutti i tributi, tutti e tre. IMU, TASI e TARI. Esattamente, la IUC, ecco. È un nome al cui interno che si articola in tre imposte concrete, che sono appunto l'IMU, che sono la TASI e che sono la TARI sui rifiuti. Quindi nessuno, diciamo, paga la IUC, tutti pagano, chi deve pagare paga l'IMU, paga la TASI e paga la TARI. Questo per aggiungere ulteriori acronimi al delitto. delirio. Esatto. grazie Salvatore Padula, vice direttore del Sole 24 Ore. Buonasera, noi andiamo a chiudere parlando di Argentina. Cosa è successo oggi? Una cosa molto attesa, ossia che la Corte Suprema americana ha respinto l'appello dell'Argentina, confermando che la stessa Argentina dovrà pagare 1,3 miliardi di dollari, 1 miliardo e 300 milioni di dollari per i bond in default agli investitori, agli hedge fund sostanzialmente. Soprattutto loro, che avevano rifiutato di scambiare i loro bond argentini in default per 30 centesimi su ogni dollaro. Saluto Claudia Segre, segretario generale di Assion Forex, esperta ai mercati emergenti, spesso nostra ospite non solo a Focus Economia ma anche a Cuore Denari. Buonasera. Buonasera. Allora, ci spiega che cosa può comportare tutto questo, perché da quel che abbiamo capito e da quel che abbiamo letto l'Argentina rischierebbe un nuovo default sostanzialmente, un nuovo fallimento? Allora, questo è quanto è stato minacciato e ventilato dal governo argentino. Di sicuro entro il 30 giugno ci sono circa 1 miliardo e 300 milioni, 1,5 miliardi di euro da pagare nei confronti di quei fondi verso i quali era stato fatto questo ricorso alla Corte americana, che è stato perso dall'Argentina. Il totale dell'indebitamento da pagarsi viene stimato intorno ai 15 miliardi rispetto ai 28 miliardi di riserve internazionali. Di fatto nel discorso di stasera del presidente Cristina Kirchner ci sono solo due possibilità: o darà mandato e quindi aprirà le negoziazioni con questi fondi e quindi ci sarà un grande rally del mercato, perché prenderà questo scrollone di oggi come una possibilità di rientrare sulle posizioni, altrimenti se chiuderà la porta alle negoziazioni è chiaro che si proseguirà sulla perdita dei corsi delle azioni e delle obbligazioni. Le ripeto la domanda, perché qua noi abbiamo letto delle agenzie che dicono, oltre naturalmente ai dati di mercato che stiamo vedendo in questi minuti e in queste ore, no? Lo spread, perché anche loro hanno un problema di spread per così dire, con gli Stati Uniti, che sale i 60 punti a quota 800, i CDS, i credit default swaps, che sono, la faccio semplice anche se abbiamo imparato a conoscerli nel momento della crisi dell'euro, sono in sostanza delle assicurazioni sul rischio fallimento di un paese, a 1788 punti in deciso rialzo. Appunto, il rischio che rifallisca il paese c'è oppure no? Allora, attualmente la probabilità che fallisca, nel senso proprio di default del termine, è ancora troppo presto per prevederlo e siamo a un 40% delle probabilità. Questo dipende appunto dal fatto che potrebbe esserci una soluzione negoziale per evitare il default tecnico, esattamente come è avvenuto per l'Ucraina. Quindi nei numeri l'Argentina può resistere, nei fatti se il mercato evidentemente gli va ancora contro perché non crede nella possibilità di queste soluzioni, si potrebbe avviare certamente a un default. Quindi un rischio da questo punto di vista c'è. Tra l'altro l'Argentina, mi aiuta in questo esercizio in memoria, Segre, è tornata sui mercati o no? Assolutamente, solo due settimane fa è stato fatto un accordo col Paris Club per oltre 10 miliardi di dollari e anche per quanto riguarda le emissioni è stata fatta un'emissione di 5 miliardi di dollari, quindi ci sono molti fondi hedge fund, esattamente come quelli che si aspettano ripagamento, che si sono buttati sul credito argentino pensando che l'esito di questa sentenza sarebbe stato positivo, quindi certamente in questo momento quegli hedge fund sono scappati dal mercato spaventati da questo esito che era in atteso. Grazie a Claudia Segre, segretario generale di Assion Forex, esperta di mercati emergenti, per essere stata con noi. Ringraziamenti, Mauro Del Corno. Grazie, buonasera. Pietro La Corte in regia, Mauro Del Corno in redazione. Un grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Noi ci sentiamo come sempre domani alle 13 con Effetto Giorno e torna Sebastiano Barisoni invece per Focus Economia in diretta da Pitti, da Firenze. Radio 24. La passione si sente.